deciso di presentare questi numeri aggiornati, ma anche in progressione storica, dei cambiamenti avvenuti nell'occupazione nell'area dell'Appennino. E in particolare si evidenzia il calo della manifattura, si sono persi 600 posti di lavoro negli ultimi 10 anni, con un trend storico ormai pesante, ma in realtà si sono persi posti di lavoro nell'Appennino in tutti quei settori in cui c'è un lavoro di qualità e ben retribuito. Cioè si perdono posti di lavoro ben pagati e quei posti di lavoro vengono sostituiti da altri posti nei settori in cui a livello metropolitano registriamo le retribuzioni più basse. Insomma, rischiamo di avere una sostituzione tra lavoro ben pagato con dei diritti con il lavoro povero. In quell'area ci sono state vertenze molto significative, le ultime in ordine di tempo, la Caffita di Asaga Coffee, che ci hanno permesso a noi, sindacato, lavoratori, istituzioni, di guadagnare tempo prezioso, perché avere evitato la macelleria sociale ci permette di aver guadagnato quel tempo che ci permette oggi di dire serve una nuova reindustrializzazione dell'Appennino. Una reindustrializzazione 5.0, è evidente che non possiamo riprodurre quanto è stato fatto in passato, però abbiamo bisogno di riportare in quelle aree posti di lavoro con diritti, con buoni salari, perché altrimenti rischiamo anche un cambiamento demografico, cioè di avere la collocazione in quell'area del lavoro più povero e anche una demografia appunto povera. Non è solo il turismo la risposta, evidentemente. Assolutamente. I numeri ci dicono esattamente questo. Se i posti di lavoro della manifattura vengono sostituiti da posti di lavoro nel turismo, vuol dire che perdiamo posti di lavoro con buoni salari sostituiti da lavoro povero. Questa non è la soluzione. Quindi abbiamo guadagnato tempo, oggi serve da parte di tutti gli attori, in modo particolare regione e anche città metropolitana, la scelta di mettere in vista del nuovo patto per il lavoro e per il clima e anche un aggiornamento della importantissima legge 14, che è la legge che sostiene l'occupazione, una condizionalità positiva per le aree più fragili del nostro territorio. Cioè se bisogna dare soldi pubblici alle imprese, diamoli per buona occupazione nelle aree che ne hanno più bisogno. La nostra montagna, il nostro Appennino richiede questo.